Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, la nostra squadra è al completo con Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, io sono qui, c'è anche il nostro sommario. Bambini, è ora di andare a tavola. Se le mani ti lanciano un SOS, cosa c'è dentro un profumo? Sarà capitato anche a voi, così cominciava il testo di una canzone, ve lo ricordate, di Raffaella Carrà, una sigla di Canzonissima, ma oggi noi usiamo l'incipit di quella canzone per dire che quasi certamente, se siete genitori, sarà capitato anche a voi di dover usare la tavola su cui consumate la vostra cena, il vostro pranzo con i bambini, come un vero e proprio campo di battaglia. Perché è vero, sono sempre più numerosi i bambini che inscenano i loro peggiori capricci intorno al piatto in cui mangiano, e allo stesso tempo sono sempre più numerose le mamme, e direi a volte anche i papà, che si disperano proprio per non riuscire a capire cosa può andare bene e cosa invece no, per i palati che diventano sempre più selettivi e aggiungerei capricciosi dei nostri bambini. Allora provo a farvi ascoltare alcune frasi tipiche che probabilmente sentite dire anche a casa vostra. Se non finisci quello che hai nel piatto, non potrai andare a vedere i cartoni. Non si dice del cibo mi fa schifo. Pensa a tutti i bambini che non hanno niente nel piatto. Non puoi dire sempre voglio solo cotoletta e patatine. Non so mai cosa prepararti perché ogni volta lasci tutto nel piatto. Non so più che ricetta inventare per farti mangiare un po' di verdura. Vi suonano familiari queste frasi? Le avete dette negli ultimi giorni anche voi e i vostri bambini? Allora oggi accomodatevi perché la vostra puntata entrate con l'800 24 00 24, questa è la combinazione vincente, e i messaggi al 349 238 6666. Oggi, come sempre succede il secondo martedì di ogni mese, è la puntata tutta dedicata alle mamme che hanno votato l'argomento del mese sul sito blogmamma.it. E noi abbiamo le nostre mamme. Saluto Veronica, ciao, bentornata. Ciao e buongiorno a tutti. E saluto Yolanda. Ciao a tutti, buongiorno. In linea però non poteva mancare la nostra dottoressa Trinci. Dottoressa Trinci, buongiorno. Buongiorno, sono con poca voce ma munitevi di carta e penna perché ho una serie di librini da consigliarvi per far mangiare pomodori, piselli e anche la verdura verde. Fantastico. Wow. La dottoressa Trinci, che è senza voce, è psicoterapeuta dell'età evolutiva, e in studio con noi abbiamo il professor Luca Bernardo, che è direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fatebrene Fratelli di Milano, e aggiungo il primo ospedale in cui è nato, proprio il primo direi in Italia e forse anche in Europa, ambulatorio proprio destinato al bullismo. Buongiorno a voi, è proprio così. Professor Bernardo, noi l'abbiamo unita alla dottoressa Trinci e poi ci daranno manforte naturalmente le nostre mamme da casa, le nostre nonne e le mamme in studio, perché il rapporto con il cibo che ogni bambino instaura sicuramente tocca delle dimensioni complesse della salute, quella del corpo, quelle delle emozioni e anche poi quelle delle relazioni. Ma professor Bernardo, quali sono i principali problemi che le mamme le raccontano quando vengono da lei e su cosa si concentra? Entra soprattutto la loro richiesta di aiuto? Beh, innanzitutto ricordiamo che il momento del pranzo, della cena, della colazione, della merenda e dello spuntino non è solo un momento importante dal punto di vista nutrizionale, ma anche un momento importante nel quale la famiglia si siede intorno a un tavolo, perché si ci siede intorno a un tavolo per mangiare, e si parla di tutto e del di più. Questo quindi è un problema, anche un motivo anche culturale, non solo nutrizionale. Le mamme spesso vengono nel nostro ambulatorio proprio perché si crea quella disperazione del dire ho provato tutto, ho fatto tutto e di più, eppure non mangiano, mangiano sempre le stesse cose, non vogliono altro, quasi come fosse un'abitudine mangiare per esempio solo la cotoletta piuttosto che solo le patatine. Certo che quello che non va fatto, un po' riferendomi alle domande dell'inizio della trasmissione, è motivare in senso negativo. Quindi non motivare nel mangiare. Innanzitutto si ci mangia seduti e non vedendo i cartoni e non giocando né alla PlayStation né al computer, quindi questo è un motivo è un importante motivo educazionale. E poi soprattutto non bisogna mai far paragoni, non mangiare perché se no, non mangiare perché guarda i bambini, non mangiare. Bisogna le cose ai bambini soprattutto motivarle, quindi è fondamentale parlare. Però non vuol dire che i genitori devono parlare sopra i bambini, ma i genitori devono anche ascoltare i loro bambini. Dottoressa Trinci, lei ci ha promesso che ci darà una serie di librini per far mangiare pomodori, pisellini, verdure a foglia verde e quant'altro. Certo, infatti io credo, intanto concordo pienamente con il dottor Bernardo su quanto diceva prima e su questo discorso culturale e nutrizionale del momento della cena. Io vorrei farvi proprio una notazione di costume, essendo un'appassionata di letteratura per l'infanzia. Voi ricorderete in molti come erano le tavole imbandite di Gian Burrasca, con questa tata che portava i budini tremolanti, che portava gli spaghettini con le acciughe, e come invece oggi anche nella letteratura per ragazzi si tende veramente a tirare via. Cioè questi ragazzini aprono il frigo e sono ragazzini che si gestiscono il momento del pranzo in maniera autarchica, con pizze al pesto, questo si legge proprio, no? Quindi diciamo che in qualche maniera quello che poi è un altro tipo di nutrimento dei ragazzini che sono i libri, in realtà poi portano a questo. Quindi io credo che veramente una cura, un'attenzione particolare che venga dalla famiglia al momento del pranzo e del mangiare possa motivare diversamente i bambini nel mangiare, tenendo presente che davvero il percorso del cibo è un percorso grosso dal punto di vista mentale, e questo la nostra Yolanda e Veronica ce lo diranno benissimo, perché si va da un momento in cui il bambino fa un'equazione fra la mamma e il cibo, fra chi gli dà, non è necessario enfatizzare il momento dell'allattamento, no, semplicemente una mamma può dare anche il biberon, certo. Però è quella che in ogni caso elargisce la cura, quindi c'è questo. E io alle mamme in questo caso consiglio un libro bellissimo che si intitola Parole di latte, che è delle edizioni Lapis della Silvia Roncaglia, che ci fa ritornare tutti ai momenti sia che si siamo vissuti come genitori sia come bambini, di quando arrivava un bastimento carico di biscottini, patatine, purè, eccetera eccetera. Ecco, quindi questo proprio ci fa capire come questi momenti siano importanti. Poi piano piano si arriva allo svezzamento, e anche questo è un momento in cui il bambino deve partire per andare verso una indipendenza, e quindi protesta magari con la disappetenza, ha difficoltà con i cibi nuovi, con i nuovi gusti. Poi c'è il momento importantissimo che è il passaggio dall'essere imboccati al mangiare da soli. Alcuni bambini ne sono fieri, con o senza le forchettine. Ai nidi tante volte sono splendidi quando mettono a modi africani proprio dentro il piattone collettivo le mani e poi ma questa è una maniera per imparare a gustare il cibo, a gustarlo in una maniera autonoma. Poi piano piano c'è appunto la forchettina, il cucchiaio, e allora a casa si comincia a litigare intorno a quanto cibo, a come si mangia. E in questi momenti poi nascono anche delle piccole manie alimentari, i bambini diventano schifiltosi. Queste manie sono anche collegate al fatto che si comincia a mangiare e anche a educare i bambini a fare la cacca nel vasino. E poi c'è una, fortunatamente, se tutto procede nella maniera buona, come più delle volte accade, questa scomparsa fra essere tra mangiare e essere accuditi. I bambini verso i 3 anni o giù di lì cominciano a riempire il mangiare di contenuti propri, quindi pensiamo a che al fatto che molti bambini, è una cosa proprio dell'immaginario collettivo, com'è che si riesce poi a fare i bambini, maschi e femmine, perché i bambini non è che pensano che le bambine possono farli e maschietti no, in una fase della vita si pensa che tutti si possa procreare. E il modo più semplice è quello di farlo mangiando. Io mi ricordo una bambina che in ambulatorio, buffissima, mi diceva: dai, dagli la Coca-Cola alla Barbie, così gli si gonfia la pancia e nascono i bambini. Ecco, quindi che tenerezza, che tenerezza, veramente. Quindi sono fantasie, pensate, insomma, voglio dire, quindi il Cappuccetto Rosso è la fiaba che per eccellenza illustra questo percorso e queste grandi modificazioni che il cibo fa. Quindi oggi percorso intorno al cibo, percorso intorno alla tavola e sulle relazioni, ma chiedo subito come sta andando a casa vostra, mamme di essere e benessere. Yolanda, Veronica, chi inizia per prima? Yolanda. Ma direi che per fortuna il periodo dello svezzamento, che direi il più difficile, è andato. Quello di cui mi rendo conto adesso e che ogni tanto mi lascia lì è che i miei che hanno ricordo dai 5 ai 10 anni mangiano sempre le stesse cose. Cioè, non so, tipo la pasta, a me piace la pasta in bianco al pomodoro, punto. Se tu gli dai qualcosa d'altro, cominciano a strottare il naso, era meglio prima, perché hai fatto così. Allora io per un po' ho provato a cambiare. Adesso, sinceramente, e vuoi la pasta in bianco e mangiati la pasta, in bianco. Veronica. Ma io sono in parte d'accordo con quello che dice Yolanda. La mia esperienza è anche questa, che ho un figlio che a volte vive il momento del pasto come un momento di interruzione di qualcosa che gli interessa di più. Quindi lui preferisce giocare, leggere, guardare un cartone, eccetera. Cavolo, c'è questa rottura di scatole di interrompere la mia attività primaria e sedermi a tavola. E a me dispiace, perché invece a me piacerebbe molto che lui amasse il cibo, cioè godesse come godiamo noi adulti di una buona cosa. Credo che questo naturalmente verrà col tempo. Con il tempo. E poi il secondo aspetto è che, siccome appunto ho un bambino di quasi 4 anni e una bambina di quasi 2 anni, lui vive il cibo in modo competitivo, cioè l'unica cosa che a volte, quando non è cotoletta, lo spinge a completare il suo latte o lo spinge a completare la sua verdura, è la gratificazione di noi genitori che diciamo che sì, è stato più bravo di sua sorella che non ha ancora finito di mangiare. Quindi li mettete un po' in competizione davanti al piattino. So che è sbagliato, ma è utile. E voi come fate per convincere i vostri bambini ad avere un rapporto bello, positivo, sereno con il cibo? E quanto il rapporto che i vostri figli hanno con, chiamiamola, pappa, condiziona anche le relazioni che sono dentro alla casa? 800 24 0024, la dottoressa Trinci e il professor Bernardo rimangono con noi, naturalmente con noi perché abbiamo le mamme Veronica e Yolanda e le mamme di Essere Benessere, che possono scriverci anche messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Insomma, Zucchero ci ha preso, doveva dedicare in fondo un CD alle mani per tutte le cose che riescono a fare, soprattutto non me ne vogliono i papà, le mani delle mamme sono sempre in attività, accudiscono, accarezzano, lavano, preparano la pappa, affettano le cipolle. E poi ogni tanto queste mani, che noi trascuriamo spesso perché intanto ci sono e sono in movimento, alla fine ci mandano un SOS, e allora noi cerchiamo di farci dare una mano dalla dottoressa Riccarda Serri. Buongiorno dottoressa Serri. Buongiorno. Dermatologa, presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica, e autrice di Tutte ragazze, come affrontare con eleganza il tempo che passa. Parleremo anche del tempo che passa sulle nostre mani, ma intanto mani rosse, screpolate, coi taglietti, mani che lavorano. Dottoressa Serri, come ci prendiamo cura di loro? È in effetti un momento difficile per le mani adesso, a proposito di mamme, è proprio quando nasce il bambino. Quindi lo curi, lo lavi, cambi il pannolino, hai sempre le mani in acqua, prepari le pappe, cerchi di preparare le pappe più gustose, succulente, le prepari con le tue delicate manine, e poi, ed ecco che le manine si tagliuzzano, si rovinano. E perché? Perché le mani si tendono a trascurare. Ci si lava con un qualsiasi sapone, mentre per le mani bisognerebbe riservare dei saponi molto delicati. Vi ricordo che le mani non hanno un film protettivo dato per esempio dal sebo, ci sono pochissime ghiandole sebacee sulle mani, quindi ci sono pochi grassi protettivi, ed ecco che bisogna lavarle con delicatezza. E una domanda: quanti di noi stamattina si sono ricordati di mettere una crema sulle mani? Veronica? Io la metto la sera prima di andare, ecco, a dormire. Alla sera si tiene sul comodino, ma alla mattina? Alla mattina, io alla devo mattina dire, non la metto mai. Professor Bernardo, lei? Io la metto. Vede, l'unico che si comporta bene è il nostro uomo. Ma poi Luca è un gran bell'uomo, devo dire. Infatti noi l'abbiamo invitato qua apposta, ecco, dottoressa Serri, mica peraltro. Allora, gli uomini sono molto attenti, sto notando, e mi fa molto piacere questo. Effettivamente alle mani non si riservano le stesse cure che si riservano al viso, eppure le si usano costantemente, si lavano frequentemente e soprattutto sono particolarmente esposte a tutti i fattori ambientali, al freddo di questi giorni, al sole nei mesi estivi, all'acqua costante. Pensiamo anche a quelli che lavorano molto a contatto con l'acqua, nei bar, in cucina o anche semplicemente alle casalinghe che si dimenticano di mettere i guanti protettivi. Anche non qui, li metto mai neanche, ecco, quelli, un disastro. E invece bisognerebbe proprio mettere prima guanti di cotone, diventano proprio i guanti dermatologici, poi, e sopra i guantini di lattice. E mettere la crema mattino e sera, esatto, come facciamo con il viso. Esatto, la crema mattino e sera e poi un bel solare quando si va al sole, una bella protezione sul palmo delle mani, e quella previene le macchie, non solo previene le macchie, ma se non si prendono più raggi ultravioletti sopra anche alle macchie già esistenti, queste tendono a schiarirsi, per cui sono ancora più efficaci i trattamenti schiarenti, trattamenti che possono essere cosmetici, ovvero esistono cosmetici che possono aiutare a progressivamente schiarire le macchie, per esempio gli antiossidanti che fanno un po', danno quell'aspetto vecchieggiante. Esatto, a me stanno simpatiche, ma molte donne possono dare fastidio. Io, essendo un po' rossa di pelle, un po' a pois, tiro l'acqua al mio mulino e amo le macchiette. Dottoressa Serri, Veronica voleva fare una domanda. Sì, io sono pienamente in target perché ho delle mani delicatissime e se le potesse vedere adesso si metterebbe le mani nei capelli. Non la è mattina, poi così vero, dottoressa. Però mi fanno male, per esempio stamattina un taglietto nuovo. La mattina io la crema non la metto perché penso che sia già una lotta persa in partenza, perché me le bagnerò immediatamente dopo 5 minuti. E poi è difficile trovare una crema che non unga, di quelle migliori nutrienti. Io ne uso una eccezionale, addirittura si chiama crema a mani per il giardiniere. Quindi lei si figuri. Ma la mattina poi è questo senso di un ticcio. Ma perché, qui dico una cosa un po' impopolare, per la maggior parte delle creme mani vendute sono a base di quello che si chiama la vaselina, petrolatum, la paraffina e i siliconi, che creano un film effettivamente sguisciante e che non assorbe. Se si ricorre a creme a base di oli più vegetali, di burro di karité, certamente penetrano meglio e ungono molto meno. Ci sono oli leggeri che ungono poco. E comunque, per quanto lei pensa che possa essere inutile mettere una crema, è invece utilissimo perché proteggerà un po' nei confronti del successivo lavaggio. Ecco, come si dice a Milano, piuttosto che niente, ecco, meglio piuttosto, una roba del genere. Ecco. E per lavare le mani bisogna usare una crema detergente, un latte detergente, al limite, sa che cosa? Del miele. Il miele è uno zucchero e gli zuccheri fanno molto bene alla pelle. Oltretutto, ne avevamo parlato, un lavaggio al miele, almeno un lavaggio al miele. Un lavaggio al miele. E ricorrere ai guanti. Tutti quelli che dicono, e anche molte donne dicono, ma io non riesco a tagliare i carciofi con i guanti, a fare di sì. Bene, i cardiochirurghi coi guanti operano nel cuore, che è come andare a operare in una scatoletta di fiammiferi, per cui si può imparare, è solo una questione di abitudine. Dottoressa, è meglio abituarsi, quindi, a usare questi benedetti guanti. Quindi creme, guantini e poi protezione per le nostre mani. Protezione continua, e poi se proprio un giorno uno magari dice oddio, ho le mani che dimostrano 20 anni più del mio viso, può ricorrere ai trattamenti dermocosmetici di biorivitalizzazione, di ringiovanimento, e si può fare anche quello, però secondo me è opportuno prevenire. Dottoressa Serri, grazie, la saluto con una bella stretta di mano vellutata. Ecco, brava. Che la mia, devo dire, che assomiglia più a una spugnetta di quelle per pulire le pentole. Comunque, grazie dottoressa Serri, metteremo la crema, buona giornata. Buona giornata. Pronto soccorso. Dottoressa Trinci, non le ho chiesto come sono le sue mani? Ha fatto bene, infatti, perché vero? Ecco, io so anche qualche spennellata di pennarello, ecco, che mi rimane l'indelebile. E noi andiamo a Trento. Viviana, buongiorno. Buongiorno. Dunque, Nicoletta, intanto complimentoni per la trasmissione. Ma grazie, Viviana. E poi volevo un pochettino raccontare la mia esperienza riguardo a mio figlio, che ha 6 anni. Sì. E ho trovato un piccolo stratagemma per fargli mangiare le verdure. Brava, allora noi prendiamo appunti. Ecco. Cosa allora, fa? Io gli faccio le zuppe, che sono praticamente dei passati di verdura con nomi molto particolari. Ad esempio, quando voglio fargli mangiare i cavolfiori, che se lui vede un cavolfiore non me lo mangia, ti dico, guarda Angelo, stasera ti faccio la zuppa di tigre bianca. Per fare questa zuppa devo andare a cercare gli ingredienti, ho bisogno di tanto tempo e concentrazione. E lui non aspetta altro che il momento della cena per mangiarsi questa zuppa, e come se la gusta. Ma guardi Viviana, mi piace molto quest'idea, quindi gliela conta su, come si dice. Sì, dottoressa, sì, sì. Trinci, mi sembra che Viviana ci dia uno spunto molto divertente anche per le mamme. Devo dire fantastico, io infatti vi avrei consigliato un libro anche a Yolanda, appunto, che mangia il suo bambino pasta in bianca al pomodoro, sì? Che è di Lauren Child, è della Ape Junior pubblicato, e si intitola Mai e poi mai mangerò i pomodori. Allora lì infatti i piselli, per esempio, vengono trasformati in verdi gocce della Groenlandia, cioè, insomma, mangiare... Viviana ci aveva visto lungo. Esatto, infatti Mangia giocando è un altro libro, questo per i genitori, che è edito dalla Salani con una lettera anche di Umberto Veronesi e prefato dalla Vivian Lamarck, è di Patrizia Bollo, una nutrizionista che lavora tra l'altro a Milano, e che è un libro fantastico, cioè che davvero aiuta i genitori a trovare delle idee, perché non sempre uno ha tempo anche, certo, per fare queste cose qui. Per stimolare la fantasia dei bambini. Ecco, quindi noi dobbiamo portare a tavola la fantasia, non solo a tavola nella combinazione dei vari ingredienti, ma anche proprio nella comunicazione. Che dice, professor Bernardo, è d'accordo? Assolutamente sì, è importantissimo, ma io direi addirittura che bisogna portarle fuori anche dalla tavola, e cioè, per esempio, che la mamma, che può essere un momento anche importante non solo di gioco ma di stare insieme, che portano i ragazzini, magari con, ripeto, una scusa di gioco, all'interno di un supermercato, di un negozio, per scegliere insieme le cose da mangiare. E noi ci sediamo a tavola con i nostri bambini, arrivano tanti messaggi, telefonate. Alessandra dalla provincia di Pavia. Alessandra, benvenuta, le voglio leggere però, voglio leggere anche a lei un messaggio di Luis che ci scrive: se non piace quello che c'è in tavola, verdure comprese, non mangia altro, quello c'è, infatti prima o dopo mangia tutto, adesso che ha 15 anni mangia cose che a me non piacciono. Quindi abbastanza tosto Luis. Dottoressa Trinci, lei che pensa? Ma voglio dire, è un'opinione, nel senso che ci sono poi dei bambini che su questo fanno ancora più resistenza, no? Rispetto, e diventa una prova di forza tra grandi e bambini. Ecco, su questo io credo che si debba fare attenzione, appunto, a che il cibo, comunque sia, non si carichi di altri significati. Ecco, sono più forte io, sei più forte te. È ovvio che i genitori, io credo, che debbano avere la assoluta supremazia su questo, nel senso che è assurdo chiedere a un bambino di 3 anni cosa se vuoi mangiare, cosa ti preparo. Io ho visto un bambino che la mattina voleva il pesto, gli spaghetti con il pesto, sì. Quindi e la si mamma... arriva poi chiaramente perché era così accontentato e gli facevano sempre tutto quello che lui chiedeva, per cui siamo arrivati. Vediamo come, che cosa fa Alessandra col suo bambino. Alessandra, a volte sono vicina a quella mamma che ha appena fa il pesto al mattino. Perché no, noi mamme abbiamo sempre paura che il bambino non mangi, soprattutto se è magrolino, e allora poi si ammala. E... No, che si ammali il mio figlio no, perché è sanissimo come un pesce, grazie a Dio, ha 3 anni, non ha mai preso un antibiotico fino a in 3 anni. Quindi sono... Il mio discorso è che per noi è più un rapporto psicologico, perché mio figlio all'asilo mangia tutto, è uno dei bambini più voraci che c'è. Però è il classico bambino che a tavola proprio ci sono delle battaglie, cioè o vuole la pasta e basta, e mangia pasta, e pasta, pasta o gnocchi. Pasta, cioè, o gnocchi. È monotematico, e poi dopo un certo punto si stufa giustamente di quel cibo lì e vai tu a trovare qualcos'altro. Io non so come comportarmi, ci sono delle volte che lo accontento e delle volte che dico no, cioè io ti ho fatto questo e basta, però... Professor Bernardo, pasta o gnocchi, gnocchi o pasta? Beh, direi che è un buon pasto, ma non è un pasto che può essere unico. Magari il piatto unico potrebbe essere a volte in alcune famiglie una soluzione, inteso il pasto unico dove ovviamente c'è un primo, c'è un secondo, c'è un contorno e una frutta. Quindi non so, per esempio fare le lasagne con dentro le verdure, e quindi c'è dentro la carne, la besciamella, la parte dei carboidrati. Sì, un e poi piatto va... unico. Esatto, piuttosto. Però direi assolutamente che sono d'accordo, come diceva la collega, il momento dell'alimentazione deve essere al di fuori di quello che è, sicuramente è un momento di regola, ma è un momento non di coercizione o di sfida, se no si ottiene l'effetto assolutamente contrario. Yolanda, tu sfidi i bambini a un certo punto, se tirano troppo la corda togli il piatto oppure fai anche tu il pesto al mattino? No, io direi che sono più sulla linea dura, diciamo, nel senso che io preparo quella cosa, quella c'è, se la mangi bene, se non la mangi... pazienza. Ecco, ma il problema è che poi magari non mangia e dopo due ore ha fame, certo, e allora certo. Vogliono la merenda e lì si inizia, poi la merenda diventa sostanziosa, per cui si arriva all'ora di cena che però ha mangiato troppa merenda e quindi è un gatto, sì, che si poi la merenda la è sempre una cosa che non, adesso per carità, se uno si mette lì proprio a preparargliela con tutti i sacri crismi, bene, se no vanno a scavare dentro la dispensa e quel che tirano fuori brioscine varie, cioccolate eccetera. Ecco, molto velocemente, secondo me un consiglio da dare ai genitori è ciò che diciamo e lo virgolettiamo fa male o comunque non vorrebbero darlo al proprio bambino, è importante che non lo tengano a casa, perché è ovvio che il bambino quando apre il frigo, apre la predispensa e trova di tutto e di più, dalle patatine a quant'altro, è ovvio che le mangia. Ricordiamo che sono sempre bambini. E qui Giovanni ci chiama da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io ho avuto l'occasione di sentirvi da poco, però l'argomento mi ha subito aperto un file, è un ricordo che ho di quando sono bambino. Sì. E devo essere sincero, mia madre è sempre stata molto furba nel somministrarci, diciamo, le pietanze. Io ho un ricordo bellissimo per quanto riguarda la coscia di tacchino. A noi è sempre stata spacciata quando eravamo piccolini come cosciotto di brontosauro. Dai. Io ho mangiato per anni cosciotto di brontosauro, sperando che potesse essere tacchino, e questa cosa qua, per quanto mi riguardava me e mio fratello, era sicuramente un motivo in più, un input in più per mangiarlo di buon grado. Giovanni, invitavate anche gli amici a mangiare il cosciotto di brontosauro? Chissà quando tornavano a casa e dicevano: mamma, a casa di Giovanni ho mangiato il cosciotto di brontosauro. Guarda, a me è capitato di riproporlo, io non ho figli, ma mi è capitato di riproporlo a bambini di amici e ha avuto un grandissimo successo. Devo essere sincero, quindi a casa mia si mangia cosciotto di brontosauro e francamente ne vado anche orgoglioso. Grazie Giovanni, ci segniamo questo piatto. Dottoressa Trinci, i nostri amici da casa ci regalano davvero tanti spunti per trasformare la tavola anche in un momento di divertimento. Guardi, quasi ci rubano gli interventi. Vero. Io volevo infatti dire alla mamma degli gnocchi e della pasta, sì, che vedere un po' se i bambini hanno, per esempio, le bambine hanno dei miti, no? Tipo le Winx. Allora, tenete presente che c'è il ricettario delle Winx, così come ci sono i panini di Gatto Silvestro, oppure dell'Orso Yogi, oppure di Robin Hood. Allora, chi potrebbe resistere alle orecchie d'elfo, per esempio, no? Che sono dei dolcetti fatti in maniera semplice a cui uno dà un nome. Per esempio, un'altra cosa credo che sia importante da fare con i bambini, oltre a fare la spesa, che è bellissima, una bella esperienza, perché il bambino vede proprio il procedimento, si rende conto anche se è piccolo, è quella che viene chiamata negli Stati Uniti la cooking therapy, tradotto in italiano con cucino terapia, anche questo è un librino edito dalla Salani da non perdere, perché fa proprio vedere le valenze anche mentali, belle, utili per i piccini, di mettersi lì a fare da mangiare. Questo non vuol dire trasformarlo in un ennesimo momento bambino-centrico, no, la mamma fa le sue cose, fa le sue ricette, e il bambino impara. Quando poi cresce, un'altra idea carinissima da mettere da parte, per esempio, è intervistare le nonne, intervistare le zie, fare una specie di ricetta, di ricettario familiare. In questa maniera qui il cibo diventa anche qualcosa che ha a che fare con le tradizioni. Pensiamo per esempio nelle scuole materne o elementari, come per esempio l'incontro, l'impatto con altre culture, le insegnanti sono bravissime, da noi si fanno in quattro e allora si fa la cena cinese, il pranzo albanese, la merenda magrabina, eccetera eccetera, quindi il cibo diventa anche un modo per conoscere altre di conoscenza culture. Andiamo a Livorno perché c'è Patrizia che ci aspetta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Allora, io Anch'io ho inventato, come tante mamme, forse tutte. Ma perché non facciamo un libretto? Dai, Patrizia, ci facciamo aiutare dalle mamme. Lo mettiamo sul sito. Tutte le mamme scrivono, anche i papà, perché anche il professor Bernardo, oltre che come pediatra, come papà, ha inventato le sue, vero professore? Certamente. Anche se ha le mani curate. Patrizia, quindi, iniziamo, facciamo questo libro a mille mani. Che cosa ha inventato lei? Allora, il gioco che ho inventato io fin da quando il mio bimbo era piccolo, ma continuiamo a farlo fino adesso che è praticamente un adolescente, è prima di inventare il piatto, di scoprire gli ingredienti che ci sono magari nei piatti che ho fatto. E naturalmente c'è sempre un ingrediente speciale, nascosto, chi lo indovina per primo, magari si tratta un po' di origano, di basilico, ma lo sollecitavo fin da piccolo a riconoscere i gusti, a riconoscere le cose, e quando naturalmente ci riusciva ci complimentavamo molto, anche certo. Se questo lo indovinava il papà comunque. E poi un altro gioco che ho fatto con lui e gli è sempre piaciuto, di inventare il suo piatto o inventare il suo panino. Io mettevo a disposizione degli ingredienti, sì. È un gioco che piaceva molto anche ai suoi amichetti. E ognuno si inventava il suo panino, naturalmente spesso le foglie di insalata rimanevano lì, però sì. Comunque le altre scelte erano sempre sane e che... cioè non erano le patatine dei sacchetti, ecco. Bello, inventa il tuo panino. Ma davvero dovremmo scriverlo questo libro, tutte le mamme, tutte le strategie. Che dice dottoressa Trinci? Troverei splendida l'idea. Vero? Yolanda e Veronica devono attivarsi. Silenzio qua in piccionaia, perché qua chiacchierano, si passano già le ricette, le domande, insomma stiamo sbranando vivo il professor Bernardo a proposito di papà. E andiamo da Roberta che ci chiama da Bergamo. Roberta, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato e complimenti per la trasmissione, siete veramente fantastici. Grazie. Volevo appunto dire che io quello che penso di insegnare ai miei bambini è questo: mangiare bene vuol dire stare bene. Secondo me c'è proprio bisogno di un intervento anche a scuola, di educazione alimentare, perché purtroppo questi bambini sono sempre più un po' la pubblicità, un po' comunque la fretta anche, che porta a mangiare cose poco sane. Coinvolgerli anche nella preparazione dei pasti, proprio anche solamente sbucciare insieme, sgranare i piselli, oppure preparare un impasto di una pizza. Tante volte ci si stupisce come i bambini rimangono coinvolti in questo e si divertono tantissimo. Tante volte non sappiamo che gioco farli giocare. Questo è un ottimo gioco e un ottimo stimolo per fargli proprio vedere i piaceri della tavola. Ma ottima idea, Roberta, anche questa andrà segnata, perché dobbiamo fare questo libro e faremo un collegamento anche col professor Bernardo. Quante consulenti ha, professore? Incredibile, c'è un libro quasi pronto. Un libro quasi pronto con la dottoressa Trinci in testa, con letture. Dottoressa Trinci, ma qua ormai l'ora della battaglia, quando si dice a tavola scocca l'ora della battaglia, invece qua sarà tutto un assaggio, una fantasia, un mescolamento. Che dice? Dico che è un gioco, che è bello, è bellissimo, però io penso che in quello che diceva ora la mamma, no? Che lei sta già facendo, di far fare da mangiare ai bambini, eccetera, eccetera, si capisce anche che è come i giochi sono realtà per i bambini e quindi sono anche fatica. No, perché spesso i bambini si ritrovano lì tutto pronto, tutto fatto, la mamma che fa tutto, invece in questo modo credo che sia anche un'altra maniera di costruire la storia della propria famiglia. Professor Bernardo, io vorrei però rispondere ai dubbi di tante mamme riguardo proprio la composizione della dieta dei bambini. Si dice devono mangiare tanta carne per crescere, e però ci sono anche mamme che dicono no, se mangiano troppa carne e invece fa male. Quanto, come vanno distribuiti i rapporti tra carboidrati, proteine, grassi? Dobbiamo farne mangiare il meno possibile, ma... Allora, ricordiamo che i pasti sostanzialmente sono 5, diciamo i due principali, pranzo e cena, poi c'è colazione, spuntino la mattina e merenda il pomeriggio. Diciamo 3 o 4 volte la carne, 2 o 3 volte il pesce, poi una volta a settimana per esempio l'uovo, questa potrebbe essere una buona dieta, ricordando che i pasti comunque devono essere completi, cioè devono contenere i carboidrati, le proteine animali o vegetali, poi vitamine e quant'altro si possa immaginare. L'importanza del pasto completo è quindi non solo la pasta o solo la carne. io credo che oggi comunque si mangi più di quello che c'è necessità, quindi non preoccuparsi certamente se mangiano più di una cosa o dell'altra. Il pesce è sicuramente fondamentale. Sfatto un mito e consiglio: non date pesce di fondale, perché ricordiamo che i pesci di fondali assorbono sostanze anche tossiche dai fondali, per esempio la famosa soiola che tutti noi abbiamo mangiato. Ah, non va bene. Non è consigliata più nell'alimentazione. Ma lei mi fa crollare. Le sfatto un mito. Vero, perché Yolanda, Veronica, era un classico. Io sempre... no? Vieni che ti preparo la sogliolina. C'è anche l'omogenizzato di sogliola. Esatto. Quindi grande, lei dice grande di classico. No. Un grande classico, lei ce lo distrugge così, esatto. Povera sogliolina. Sì, quello che andiamo probabilmente invece arriva... Diciamo che il pesce migliore attualmente è sicuramente un pesce estremamente povero, che nessuno considera, anche per un po' l'odore di quando si cucina, che è il pesce azzurro. Quindi si va di acciughe, che poi... Direi di sì. Per esempio anche di acciughe. Anche impanate fritte? Sì, qualche volta. Diciamo impanate messe al forno. Arriviamo a una via di mezzo. Insomma, c'è un profumo che gira nell'aria, ma noi parliamo di quel profumo che esce come una magia dalle boccette di profumo. Si avvicina San Valentino, molti regaleranno e riceveranno profumi. E in linea con noi, io sono davvero felice, tornata a trovarci Laura Tonatto, creatrice di profumi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per questo invito. Allora, dalla pappa, che ha un profumo magnifico, soprattutto se condita con tutta la fantasia che ci è stata suggerita dagli interventi dei nostri amici da casa, parliamo del profumo, quello che indossiamo e sentiamo dalla boccetta. Che cosa c'è dentro il profumo, però? Ecco, è proprio molto interessante questa domanda che hai fatto, perché quando acquistiamo un profumo non sappiamo esattamente che cosa c'è in questo flacone magico che diffonde di volta in volta sempre note diverse, emozioni diverse. E allora la composizione del profumo è veramente semplicissima, perché occorrono pochi ingredienti e sono essenzialmente delle essenze, degli oli essenziali che possono essere di natura vegetale, animale, di sintesi anche. Ed è molto importante che queste sostanze di sintesi accompagnino per esempio quelle naturali, perché a volte le esaltano, a volte le fissano molto bene. E poi questo corpo odoroso, perché così si chiama, viene diluito con l'alcol. L'alcol è quello del buon gusto, che si utilizza anche per fare i liquori, ed è puro, è quello bianco quindi, che non ha odore, colore e sapore. E dopodiché si tengono queste due sostanze in infusione per 3 settimane. E a questo punto si abbassa la gradazione alcolica con dell'acqua distillata, si filtra e si confeziona nei flaconi più belli possibile, insomma. Magnifico. E poi quando si aprono si annusano. Yolanda, Veronica, voi siete donne profumate? La dottoressa Trinci, che io ho avuto modo di incontrare, è una donna profumata. Dottoressa Trinci. Chanel 19. Ma come l'ha detto Laura? Hai sentito come ha detto? Chanel 19. Chi usa Chanel 19 ha fatto una scelta, è proprio quella di dire: sono una donna, una femmina e sono qui. Perché Ernest Bon, nel creare questo profumo nel 1921, proprio per Madame Coco, ricevette un brief, una proprio notazione specifica. Il Chanel numero 5, secondo Madame Coco, doveva sapere di donna. E questo è un messaggio che le donne che scelgono questo profumo assolutamente vogliono dare. E professor Bernardo, le abbiamo detto che è un bel uomo, abbiamo detto che facciamo un libro con lei. Che profumo usa lei? Uso 2 tipi di profumi diversi. Ah, sì, sì. Però... Diciamo che però alla uno fine... Uno per le occasioni, uno per... Esatto, le occasioni ovviamente con mia moglie. Ah, no, ma non pensavo, non pensavo è a quello. È una battuta ovviamente. E di che cosa sanno? Io non posso avvicinarmi troppo. Di uomo? Sì. vede, Laura, ci sono, quali sono i profumi proprio che fanno uomo come Chanel fa donna? Beh, dunque... Nella storia della profumeria, Eau Sauvage di Christian Dior ha proprio segnato un punto fermo, e cioè acqua selvaggia. L'uomo doveva sapere di questa freschezza selvaggia, giovane. Devo dire una cosa, che l'uomo non deve mai lasciare la scia. No, questo infatti devo dire che Laura, infatti il professor Bernardo... Non si sente, cioè si vede solo, è assolutamente, non lascia nessuna scia. E Veronica e Yolanda, io tra l'altro sono raffreddata. Come io siete? Devo dire che ho un profumo molto particolare, anche per un utilizzo molto particolare, non che uso io, ma lo faccio proprio esattamente come ha appena descritto la... Però lo uso contro i pidocchi. Veramente? Sì, a base di lavanda. Perché in un vecchio ricettario della nonna avevo trovato che la lavanda veniva proprio utilizzata contro i pidocchi una volta quando non c'erano i prodotti in farmacia. Quindi tu associ la lavanda al pidocchio, questo è il rischio, perché Laura... Sì, la lavanda ha un ottimo potere disinfettante. Nella Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, quando c'erano questi rifugi dove venivano depositati i cadaveri, a un certo punto l'odore diventava insopportabile, quindi toglievano questi corpi e disinfettavano e profumavano con la lavanda. Ecco. Per quel periodo storico, chi ha vissuto quel momento, l'odore di lavanda quindi è ricordo di morte, non di pulito. Sensazione. Ma noi insieme a Laura torneremo domani a parlare di profumi buoni, di profumi quelli che si aspirano, si assaporano con gli occhi chiusi, che facciamo proprio penetrare dentro, perché Laura Tonnato torna a trovarci domani. Grazie Laura, a domani. Grazie a voi e a domani. Dottoressa Trinci con quello Chanel. Noi ci sentiamo al secondo martedì del prossimo mese. Non lo so, volevo fare un po' la voce da Chanel. Grazie dottoressa Trinci, grazie alle mamme, al professor grazie Bernardo. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11.